Noi siamo stati convocati al mattino per una illustrazione sommaria delle proposte che venivano accennate e poi con grandissima sorpresa ci siamo accorti che alle 6 del pomeriggio la Regione aveva convocato una conferenza stampa per illustrare anche più nel dettaglio i contenuti di questa manovra, quindi un metodo assolutamente sbagliato, tanto più che al mattino avevamo convenuto su percorsi di approfondimento che avrebbero dovuto portare all'istituzione di 3 tavoli per permetterci di capire un po' meglio la situazione. Per quello che riguarda poi il merito, noi abbiamo detto da subito che le 5 priorità indicate dalla Regione, vale a dire irrobustire il sistema sanitario pubblico e difenderlo in primo luogo, dare più risorse alla non autosufficienza, concentrarsi su mobilità sostenibile, quindi trasporto pubblico locale, sul problema della casa e sulla questione della manutenzione e della salvaguardia del territorio, erano priorità assolutamente condivise, sono nostre rivendicazioni degli ultimi anni. Il tema è, in difetto di risorse, per effetto anche delle scellerate politiche nazionali, chi paga? Noi non vogliamo che a pagare siano sempre i soliti, cioè i redditi medio-bassi, i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che già adesso sostengono più o meno l'83% della fiscalità generale di questa regione e che stanno attraversando momenti di difficoltà legati alla crisi generale, legati all'insufficienza dei redditi da lavoro e delle pensioni e quant'altro. Il presidente De Pascale ha detto che ha fatto questa manovra per non tagliare i servizi e che ha cercato il più possibile, come dire, di introdurre elementi di progressività, ad esempio sull'IRPEF, ovviamente chi ha meno pagherà di meno rispetto a chi ha di più, però ci sono anche tasse come il bollo o altre che colpiscono tutti indistintamente. È assolutamente così ed era il motivo per cui uno dei 3 tavoli specifici che avevamo chiesto era proprio un tavolo di approfondimento rispetto al taglio fiscale della manovra per capire in concreto chi avrebbe colpito, con quali simulazioni davanti si poteva lavorare all'ipotesi e tutto questo ovviamente non è stato possibile, non è andato avanti perché c'è stata un'accelerazione unilaterale inaccettabile da parte della Regione. Noi avevamo bisogno proprio di capire quali sarebbero stati gli effetti concreti della manovra nelle tasche delle persone che rappresentiamo. Non accettiamo che a pagare siano sempre i soliti noti. Ma ci saranno adesso occasioni di confronto? Ce lo auguriamo, lo speriamo. Ovviamente il confronto deve partire da presupposti completamente diversi. I sindacati, le organizzazioni sindacali in questa regione, le 3 confederali rappresentano almeno 1,5 milioni di cittadine e cittadini. Non possono essere i notai di decisioni che sono già prese dalla regione. Ci deve per un confronto vero, serrato, se necessario, altrimenti non avvaleremo sicuramente scelte prese in maniera unilaterale che, pur corrispondendo a finalità condivisibili, perché intendiamoci, difendere la sanità pubblica è un interesse del sindacato confederale, perché farne le spese di liste d'attesa che si allungano, di specialistica che non è più garantita, non sono mica i ricchi poi vanno a pagarsele nel privato, le visite, la diagnostica, le conseguenze sono pagate dai poveri. Quindi ci mancherebbe che non siano anche interessi nostri questi, però vanno discussi, vanno approfondite le questioni, va capito su chi gravano i costi. Tutto questo la Regione deve metterci in condizione di farlo. Se procede per colpi di teste, per colpi d'ariete, non ci avrà sicuramente dietro come cagnolini scodinzolanti. Possiamo dire quindi che di fronte a tagli del governo che ovviamente stanno incidendo, abbiamo visto anche a Bologna con la questione del trasporto pubblico locale, c'è modo e modo di fare le cose e forse serve un'alleanza tra gli enti locali e i cittadini. Io credo che mai come oggi ci sia bisogno di un grande patto democratico di consapevolizzazione rispetto a scelte che sono state fatte a livello nazionale, ma un patto democratico non può prescindere dall'elemento della solidarietà che è scritta nella nostra Costituzione, cioè dal principio che i primi a pagare e a sostenere servizi e perimetri pubblici che rischiano di crollare per effetto della scelta del governo devono essere coloro che hanno più risorse, coloro che hanno redditi più elevati, coloro che hanno ricchezze, coloro che hanno patrimoni, perché tutti gli altri, ripeto, stanno già sostanzialmente pagando l'83% del sistema emiliano-romagnolo.